ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Quindicesima puntata. Faceva ora i suoi viaggi a Portici senza bugie. L'arredamento della piccola casa dove avrebbero vissuto le prendeva tempo ed energie, perché i soldi erano pochi e bisognava arrangiarsi a farli bastare. Un fornello Primus, qualche sedia un po' dondolante, un tavolo, le librerie. Aspettando i facchini che dovevano portarle le reti del letto, Xenia cucì in fretta e furia un paio di tendine. E quando le ebbe appese, i muri male intonacati le diedero meno noia. Anzi, si perse in fantasticherie per i giochi di luce che il tramonto disegnava sulle irregolarità delle pareti. Arrivò Mimmo, Xenia fiera gli mostrò le novità. Insieme stesero sul letto nuovo le lenzuole e le coperte. Misero nelle federe i cuscini di piuma, un lusso. Gesti rigidi, restavano distanti impedendosi le affettuosità consuete. Sedettero ai due lati del tavolo e subito Xenia si rialzò per preparare il caffè. Mimmo la fermò mentre passava. Lei sussultò e si voltò a chiedergli: «Ora?» con un tono di apprensione e con la voglia forte di rimandare. Ne avevano parlato a lungo della necessità di verificarsi fino in fondo prima di decidersi al matrimonio, al vivere insieme. Avevano rinviato e rinviato. Nessun momento mai sembrava quello giusto. Ma ora mancavano pochi giorni. Xenia aveva già fatto il bagno rituale che ne consacrava la conversione all'ebraismo e le casse dei libri di Mimmo, ammucchiate tutto intorno nella casa, ne sancivano il futuro. All'inizio fu come un compito, obbligatoriamente penoso perché doveroso. Ma per fortuna erano giovani e innamorati non solo con la testa. Riuscirono anche a ridere e a giocare. Xenia accolse i regali di nozze con gratitudine e imbarazzo. Di corredo non portava neanche un asciugamano. Mimmo la sforzava a superare le convenzioni borghesi, ma per lei restava un tarlo. Perfino Dvora, che veniva dalla Palestina, si era costruita una dote di lenzuola e tovaglie. Il suo stipendio di impiegata lo spesero per il mobilio indispensabile e neanche bastò. Quel che Mimmo guadagnava sarebbe servito per la sopravvivenza. Xenia accettò dunque gli asciugamani di spugna fitta, mai adoperati, che Alfonso prelevò dalle riserve di cui Pellegrino l'aveva dotata, e le lenzuola di lino e le coperte militari residuate da una fornitura non andata a buon fine. Ermelinda le ricamò una tovaglia a punto Assisi per le grandi occasioni, un copriteiera, tre cuscini per dare colore alla panchetta di legno e morbidezza. Ma nelle mattine fredde, quando a tirar fuori il naso dalle coperte il fiato si condensava in nuvole di vapore, Xenia si vedeva davanti la casa squallida e faticava a scacciar via i desideri. Perciò il servizio d'argento che Alfonso le regalò fu una sorpresa di luce. I molti pezzi e l'eleganza le diedero una contentezza che durò a lungo. Insieme ai piatti di porcellana, preoccupata a ragione per le sue scarse doti culinarie, Ermelinda le regalò il talismano della felicità e intanto in disparte Alfonso precisava a Mimmo che il servizio era uguale a quello dato in dono a tutti i fratelli e non solo per Foggia ma anche per peso e titolo dell'argento per evitare ingiustizie e per una tradizione di rifugio che ora nella loro vita sembrava ad Alfonso almeno, finalmente superata. Ma non si può mai sapere. Il tramonto era mite. Così in quattro sollevarono i tavoli e li portarono fuori, sulla stradina tranquilla, protetta alle spalle dai muri alti dei palazzi del ghetto. Mimmo sedette per primo, a capotavola, e poi gli altri, tutti maschi, perché quella era la tradizione. Forse familiare, forse anche un residuo religioso. Nel chiacchiericcio fitto degli amici restava silenzioso. Lo sguardo frugava tra gli squarci di prospettive verso i rumori, i traffici della città dei Goim. Bisognava aspettare. L'oste, in un suo modo lasco, rispettava le prescrizioni. Controllarono gli orologi. Era quasi l'ora. Si voltarono verso il cuore del ghetto. Tutti tranne Mimmo, che continuava a guardare davanti a sé, assorto. Lo spicchio di cielo fra i palazzi aveva perso colore. Nel silenzio che pesava sui muri, fievole, dalla sinagoga che Angelo aveva fatto costruire, giunse il suono dello shofar. I camerieri immobili si animarono improvvisamente. Cominciò un gran traffico di piatti e pietanze. A turno gli amici si alzarono e proposero brindisi a Xenia, al matrimonio, ai figli che sarebbero venuti e ai figli dei figli, a una vita di prosperità e di pace. E ad ogni brindisi, nel tintinnio dei bicchieri, la risposta era quella imparata in ebraico: L'chaim, alla vita. Mangiarono molto, bevvero, anche Mimmo animato raccontava storielle ebraiche e barzellette. All'ultimo, nello smuovere delle sedie, un brindisi a due, invisibile agli altri. A minuti, disse Mimmo. A minuti, rispose Manlio, e si strinsero forte le mani. Il sogno di una rivoluzione possibile e rapida, di cui investire ogni attimo della propria vita, accese i loro sguardi. Per rispetto dell'amicizia fra loro, gli altri li lasciarono andar via da soli. Lungo la strada parlarono fitto, accompagnandosi dall'una all'altra abitazione, dei modi che avrebbero tentato per prendere contatto con il partito. Xeniuszka si vestiva in fretta, senza riguardi per l'abito nuovo che sua madre le aveva regalato. Xenia la osservò mentre si pettinava senza neanche guardarsi allo specchio e strinse le labbra. Per aiutarsi a tacere, prese a riordinare la stanza con gesti che dovevano essere quelli di ogni giorno. Sulla porta di casa, al momento di salutarsi, Xenia porse un mazzetto di fiori alla figlia, che gli accettò dopo un'esitazione non breve. Dalla finestra Xenia guardò sua figlia andar via, frettolosa nei passi e incauta nell'attraversare la strada. La cerimonia solo per rispettare le convenzioni. Il matrimonio un fatto così formale che lei era stata pregata di non assistervi. L'adesione all'ebraismo no. Benché assente, Xenia proprio non immaginava di considerarla formale. Il ritorno di Xeniuszka alla religione cui suo padre, sia pure laicamente, apparteneva era questione troppo seria per farsene una copertura. Né era in dubbio che sarebbero andati in Palestina, loro due, e anche lei, Xenia. Tolse dal letto di Xeniuszka lenzuola e coperte, ripose il cuscino e arrotolò il materasso. Qualcuno più tardi l'avrebbe aiutata a spostare la rete perché la stanza tornasse spaziosa. Lungo la strada ripeteva e ripeteva le formule in ebraico. Del timore di dimenticarle, di fare brutta figura e farla fare a Mimmo non si liberava. E non l'abbandonava la paura che lui non fosse all'appuntamento, per i rischi che già stava correndo e anche per un tremore di abbandono e sconfitta più profondo. ed era per questo che non aveva voluto rischiare testimoni. Gli occhi di sua madre erano troppo capaci di leggerla. Ma Mimmo era già lì e i gradini del tempio lo facevano alto. Le si fece incontro e anche lui, forse, qualche ansia l'aveva avuta. Si strinsero forte sotto braccio. Entrarono. Xenia seguì poco la cerimonia. Sapeva già di doversene dimenticare. Guardava gli stucchi e l'oro. Ne considerava il gusto discutibile, però fece la propria parte passabilmente. Invece Mimmo, certo per quella smania di serietà che aveva, compiva assorto ogni atto alla perfezione, come ai tempi dell'ortodossia. Che fosse per fuorviare sorveglianze eventuali, soltanto Manlio lo sapeva, e forse non ne era convinto del tutto. Poi il calice rituale tintinnò ed erano sposati. Di fronte al mondo e, incidentalmente, per coprire con l'accettabile sionismo altre scelte, per il popolo ebraico. E finalmente Xenia non era più Xeniuska, non era più Apolide. La cerimonia era anche per farla compiutamente italiana. E nelle loro abitudini lei era già anche Marina, un nome qualunque che con quello di battaglia che la madre aveva adottato ai suoi tempi, Irina, si intendeva avesse non più che una casuale assonanza. È seduta su di una poltroncina, le gambe sollevate per mitigare il gonfiore. Mimmo smette di lavorare per bere un po' d'acqua e passandole accanto le accarezza la pancia gonfia e tesa, cercando per tenerezza l'ombelico che il bambino ha spinto fuori, quasi lo spazio non fosse sufficiente per tutti e due. Xenia gli dice di tornare a lavorare, preoccupata che non stia alzato troppo a lungo stanotte, chino sui libri e le carte che motivano la sua vita. Lui va e Xenia fa con le gambe una piccola ginnastica che Lello le ha insegnato per migliorare la circolazione. Guarda le punte dei piedi e pensa che solo così riesce a vederle. In altre posizioni la pancia le copre ogni visuale. Il bambino si muove, o forse è una contrazione. Allo scadere del tempo manca così poco. Xenia interrompe ogni movimento e resta in ascolto, chiedendosi cosa mai sarà questo figlio e quale il suo destino. Con Mimmo sono d'accordo, lei non correrà altri rischi che quelli strettamente necessari. Ma qual è il confine? L'avvenire di lui in prigione è una certezza, e quel figlio è anche per tenersi uniti, un mattone in più della cinta che avvolge e dà senso al loro amore. Dentro quelle mura non c'è posto per nessuno, neanche per un figlio. E del resto, se anche a lei capitasse di essere arrestata, altri dovrebbero prendersi cura di quella sua creatura. Xenia, con gli occhi chiusi, si dondola avanti e indietro e avanti, e intanto canta a bassa voce una canzone senza parole per il bambino o per sé, per scacciare la paura, gli interrogativi che salgono a stringerle la gola. Mentre si prepara ad andare a letto, il bacio che Mimmo le dà è una risposta sufficiente ad ogni dubbio. Le sembrò di non poter sopravvivere allo strazio, allo scempio che la creatura faceva per nascere di tutto il suo corpo. Si tenne dentro gli urli, la pena, il dolore. Pensò che mai più avrebbe permesso che le facessero questo, e intanto stringeva forte le labbra e non le sfuggì un gemito. In silenzio Alfonsa le teneva la mano, le tergeva il sudore con un panno. Poi, quando fu il momento, ordinò a Finimola l'acqua calda e di chiamare Lello. Tutte le membrucce in regola, annunciò lui a Mimmo, quando, asciugandosi le mani, uscì dalla stanza. Xenia a malapena vide la bambina e subito si addormentò, sfinita. Ma dopo, quando gliel'attaccarono al seno e non succhiava, Prevalse su ogni cosa il desiderio di continuare a darle vita, di vederla crescere e farsi forte. Volle pettinarsi, malgrado le occhiaie, chiese la cipria. Mimmo, entrando, la trovò bellissima. Gli occhi di lui, orgogliosi e ridenti. Mimmo, con circospezione, prese in braccio sua figlia, con mani trepide come se temesse di romperla. E il dolore non importava più, e Xenia desiderò ancora tanti figli con lui. La definirono il loro involtino della felicità. Per l'anagrafe fu Lea Ottobrina, con il divertimento dell'impiegato che pensava fosse per la marcia su Roma, e loro avevano in mente la rivoluzione d'ottobre. E per terzo nome si chiamò Eleftheria, perché il regime non consentiva di chiamarla libera, come Mimmo aveva giurato insieme ai fratelli. Tornarono a Portici prestissimo, appena Xenia fu abbastanza in forze, per il lavoro da fare e perché avevano voglia di star soli. La culla, i panni e le fasce stesi qua e là, l'odore di borotalco e di latte e di pulcino. Una famiglia nuova, una radice da coniugare al futuro. Passi per le scale, il campanello. Andarono ad aprire insieme, emozionati, lei sistemandosi il davanti del vestito e lui buttando indietro con la mano il riccio che gli cadeva sulla fronte. Il primo fu Giorgio Amendola. Giorgione. E già la stanza sembrava troppo piena perché altri potessero prendervi posto. Gli diedero la sedia più resistente. Lui si complimentò con Xenia per il rosa variegato dei gerani. Lei sorrise un po' imbarazzata, non rispose. Arrivò Manlio e con lui due operai. Xenia chiuse con cura la porta alle loro spalle, piano, poi le finestre, gli scuri. Tutti in piedi, le facce serie e concentrate. Nel silenzio Mimmo poggiò le mani sul tavolo come a trarne forza, poi disse: «Compagni!» E subito le parole divennero facili, per quell'atmosfera di unità, di fervore che si respirava nella stanza. Disse dell'importanza dell'anniversario che stavano celebrando, il 12° della rivoluzione d'ottobre, e dei compiti gravosi che aspettavano ciascuno dei presenti, nessuno escluso, neanche chi pensava di non aver ancora preso una decisione. E guardò Giorgione, che da mesi ormai teneva il piede in due staffe, e l'altra era il gruppo di non mollare che a Napoli faceva capo ad Enrico. Quando Mimmo concluse, prese la parola uno degli operai. L'abilità oratoria che dimostrò era forse inferiore a quella di Mimmo, ma non la passione. Parlò anche lui degli incerti e del bisogno che c'era di ogni braccio valido, di ogni intelligenza. Allora si fece avanti Giorgione, rosso in viso per l'emozione. «Chiedo formalmente», disse, «di essere ammesso a far parte del Partito Comunista». Grandi manate sulle spalle, abbracci. Xenia si alzò sulle punte dei piedi per arrivare a baciarlo su di una guancia. Era stata una lunga battaglia, combattuta senza esclusione di colpi. Mimmo poteva essere fiero della propria opera di proselitismo. Ma Giorgione non volle dargliela vinta, per ragioni sue personali e per il vizio già inveterato della retorica proletaria. Disse che a convincerlo fino in fondo non era stata la sua dialettica, ma le parole semplici dell'operaio. Il vino rosso nei bicchieri. A minuti, disse Mimmo e alzò il bicchiere per il brindisi. A minuti, gli fecero eco gli altri e sottovoce, perché da fuori nessuno potesse sentire, intonarono l'Internazionale, che già solo a cantarla valeva un buon numero di anni di galera. Si narra che nei 40 anni che le tribù di Israele trascorsero nel deserto, quando gli uomini erano scoraggiati per le sofferenze e le pene, le loro donne si facessero belle e si cospargessero di profumi per consolare la loro debolezza ed impedire che il popolo si estinguesse. Per questo, quando poi si trattò delle offerte per costruire il tabernacolo, l'Eterno accolse in dono i loro poveri specchi e fu una consacrazione. In giro per le tende di specchi ce n'era uno solo, piccolo e rovinato, ma non ci fu chi non lo usasse quella sera, per sbarbarsi gli uomini, le donne per rialzarsi i capelli o per colorirsi le guance pizzicandole. con i turni di guardia ridotti all'indispensabile, sciamarono verso lo spiazzo bianco di polvere, sullo sfondo i resti della sala comune, l'unica baracca che avevano potuto costruire in legno, andata in fumo durante il più recente attacco arabo. 78 fra uomini e donne, da ogni parte del mondo, accoccolati per terra in circolo, nell'oscurità che è preferibile non forare, così allo scoperto con le lampade. Enzo si alza in piedi, è il segretario del kibbutz, dichiara aperta l'assemblea generale e parla dell'unico punto all'ordine del giorno. Una discussione breve, senza asprezze, poi il voto. A favore? Chiede Enzo. Tante mani alzate, difficile contarle nel buio. Contrari? Nessuna mano si leva. L'unanimità che Enzo ha voluto costruire è, in questo momento almeno, raggiunta. Enzo è in piedi, ben dritto come Alfonso gli ha insegnato da bambino. Anche tutti gli altri si alzano, in silenzio, con una solennità accesa sui visi scavati dalla fatica e dalle apprensioni. Il nome che il nostro kibbutz si è dato è Givat Brenner, proclama Enzo, e nella sua voce c'è un'incrinatura di commozione. In tante lingue diverse, prima sommesso e poi via via più forte, si alza un canto, l'internazionale. Ci si abbraccia e le lacrime a molti inumidiscono gli occhi. Enzo per la felicità non riesce a star fermo. Gli sembra che in tanti possono essere gli fratelli e sostituire quelli che ha lasciato in Italia. Tutto gli pare possibile qui, sulla collina di Brenner. Non eroi biblici, né vittime di repressioni per dare il nome alla città del sole che ha immaginato, ma un poeta, Josef Chaim Brenner, per tenere insieme la poesia e la lotta, la speranza e la coscienza, perché ebrei laici ed ortodossi imparino a convivere fra di loro e con gli arabi. È il 15 febbraio 1930 e il mondo, tutto, gli sembra a portata di mano.